Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Continuiamo la nostra conversazione iniziata ieri con la professoressa Lorella Montrasio, direttrice del DIS, il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Stradale. Buonasera Montrasio. Buonasera. Dunque, ieri abbiamo dato un po' di numeri, 300.000 incidenti all'anno, 200.000 i feriti, 4.000 i morti. Abbiamo spiegato che a volte, anzi molto spesso, ci sono delle cause banali all'origine di questi numeri, come buche nell'asfalto piuttosto che attraversamenti pedonali posizionati davanti alle fermate dell'autobus anziché dietro. Questa sera vogliamo dare un po' di suggerimenti, indicare un po' di possibilità per aumentare la sicurezza stradale. Montrasio. Sì, certo. Una prima soluzione, che tra l'altro è già adottata in altri paesi europei, in Francia di largo uso, è quella di evitare gli elementi verticali rigidi, quindi sostituire gli elementi verticali metallici con degli elementi morbidi. Cioè, stiamo parlando del classico palo su cui si va a sbattere, sì. Per esempio. Sì, siccome le piante io le salverei tutte, semmai le proteggerei. Sì. Ma i pali metallici che sono di nostra realizzazione umana, quelli possono essere sostituiti con elementi. Per esempio, verticali. I pali della segnalettica stradale, lei sta dicendo? I pali della segnalettica stradale, quelli che vengono utilizzati come spartitraffico, oppure quelli che adesso utilizzatissimi delimitano le zone pedonali o ciclabili. Ecco, tutti questi elementi sostituiti da elementi magari in gomma riciclata, adesso abbiamo un provvedimento che obbliga al riciclo del pneumatico, potrebbero essere una valida soluzione per evitare queste morti legate appunto all'urto contro questi oggetti rigidi, anche i famosi panettoni. I panettoni che possono essere già, certo. Questo un pochino lo sono in alcune città, insomma, più forse perché rovinano la carrozzeria. Certo. E tra l'altro importantissimo in autostrada. Io mi sono sempre domandato che cosa succedeva a un motociclista che usciva in curva, perché di solito c'è un guardrail che sembra fatto apposta per far sì che il motociclista ci si infili sotto e ci lasci le penne. È un tasto veramente dolente. Noi con Confindustria ANCMA stiamo appunto cercando di lavorare a soluzioni per evitare il taglio della testa del motociclista sotto i guardrail a paletti. Provvedere anche su quelli già realizzati con sistemi poco costosi è una priorità. Voi tra l'altro mi pare che ci abbiate anche un po' provato, no? A dire, beh, se qualche imprenditore vuole, qui c'è un mercato che si apre, quello degli oggetti per la sicurezza stradale in gomma riciclata. In Italia siamo quasi al 100% della raccolta di pneumatici, molti li bruciamo, forse sarebbe meglio usarli così, ma non c'è nessuno che si è fatto sotto. Era una partnership tra l'altro proprio con Confindustria ANCMA questa, i produttori invece potenziali di questi elementi. Noi avremmo fatto tutta l'analisi scientifica necessaria e poi i test risolutori, ma poi c'è stato appunto questo... Insomma, non se n'è fatto niente. Peccato, perché sembra tra l'altro uno di quei settori nel quale forse c'è anche da fare un po' di affari. Vabbè, senta, qualche altro esempio di cose tipiche? Posso dire una cosa semplicissima, questo viene dagli amici tedeschi. 400 morti all'anno in Europa sono legati al fatto che i camionisti con lo specchietto retrovisore destro non ben orientato non vedono, hanno i cosiddetti angoli morti che non permettono loro di vedere l'utente piccolo, il pedone, il ciclista, il motociclista. 400 morti sono parecchi. Basterebbero delle piazzole di servizio con delle linee disegnate, c'è proprio un progetto di un ente tedesco che ricerca sulla sicurezza stradale, che è DECRA, che le ha già sperimentate ampiamente in Germania, qualcuna l'ha realizzata anche in Italia, però sono quattro segni. Quindi dei riferimenti visivi nei parcheggi per i camion, lei dice, sostanzialmente. Banalmente, quindi delle strisce, il progetto c'è anche credo un brevetto, quindi è molto semplice e sarebbe, risparmierebbe 400 morti. Ecco, senta, altro tasto dolente è quello dei ciclisti. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di spostare la mobilità per quanto possibile, dove è possibile, sulle biciclette. Per esempio Milano è una città adatta alle biciclette dal punto di vista della conformazione del territorio, però è considerato da molti un tentato suicidio quello di prendere la bicicletta e avventurarsi nel traffico milanese. Certo, nelle grandi città si concentra l'80% dei morti e dei feriti urbani, diciamo. Milano, Roma, Torino, Genova e Napoli, adesso vado a memoria, sono le città dove si concentrano appunto. E quindi chiaramente l'80% degli incidenti. Il resto fanno anche sommate una un bel po' di popolazione, però fanno proprio lievitare anche in proporzione, si direbbe. Sì, perché pullulano di vita, di commissioni tra tutti i mezzi di trasporto possibili. E chiaramente l'utente debole ha la peggio. I pedoni, i ciclisti sono i più vulnerabili, e quelli che poi per fasce d'età cioè tutta la categoria rischiano di più, spesso sono anche giovani. Senta, ma è vero che le piste ciclabili sono pericolose? Guardi, noi abbiamo appena fatto un'attività di ricerca per il comune di Parma, che appunto ha partecipato a un progetto europeo Karma sulle piste ciclabili, ne ha messa a punto un buon numero di chilometri, e dunque Parma è diciamo avanti da questo punto di vista, e abbiamo verificato che le piste ciclabili, un po' come le strisce pedonali, siccome fanno sentire l'utente, il ciclista sicuro, fanno calare l'attenzione e mettono quindi in pericolo proprio per questo abbassamento della guardia. Si figuri che qui a Milano c'è stata una zona in cui avevano montato i cordoli delle piste ciclabili al contrario, quindi invece di essere un cordolo per i ciclisti e una barriera per le auto, era un cordolo per le auto e una barriera per i ciclisti. Lei si immagini, ecco, altro non che gomma. Va bene, senta, grazie Montrasio. Grazie a lei e a presto, spero con buone notizie sul suo speriamo. Grazie, buona serata. Arrivederci anche a lei.